È a mezzogiorno e 09, noi torniamo sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo facendo il redazionale del mercoledì, siamo in collegamento con un compagno del laboratorio Crash di Bologna che ha trascorso diverso tempo negli Stati Uniti, ha curato anche un ebook 2 anni fa dal titolo Sguardi dagli USA, l'abbiamo già intervistato qualche settimana fa per parlare dello scontro Donald Trump contro Hillary Clinton, oggi commentiamo insieme a lui la vittoria di Donald Trump che ha ottenuto 290 grandi elettori e che è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ciao, buongiorno, ci senti? Ciao, sì, sento. Allora, intanto noi ti chiediamo un commento generale rispetto alla vittoria di Trump. Io ho anche confessato che non mi aspettavo questo esito. Ti chiediamo un po' a te cosa ne pensi. Ma insomma, sicuramente per valutare appieno quello che è successo, dire d'obbligo dire che bisognerà un po' attendere del tempo, perché sicuramente le reazioni e controreazioni a questo esito, che sicuramente, come dici anche tu, non era previsto dalla maggior parte sia dei voti quotidiani che dei sondaggi, eccetera, quindi appunto ci vorrà del tempo. Sicuramente però alcune immagini, alcuni frammenti di analisi è già possibile in qualche modo introdurre, è già possibile fare alcune affermazioni. Innanzitutto sicuramente quello di Trump è un'affermazione che in qualche modo sta possibile anche perché la storia, diciamo così, che ha narrato Trump è stata una storia vincente, come si sa ogni elezione in qualche modo è anche l'acquisto, no, di un prodotto più un prodotto di una narrazione più avvincente. Sicuramente guardando un po' questi 2 anni di fatto di campagna elettorale, tra la Clinton che prometteva continuità, stabilità e diciamo così un normale riprendere le linee di quello che è stato un po' l'amministrazione Obama, e un Trump che invece parlava di cambiamento, di rottura in qualche modo, ecco, questo messaggio evidentemente è quello che ha pagato. C'è anche un dato credo interessante, sempre per far sfogare delle immagini, che è quello che si un po' basta guardare la cartina elettorale per quella, insomma, quella che si vede sui giornali, no? Quella colorata rosso e blu a seconda di quali stati sono nati i repubblicani, quali democratici, e metterla in confronto con la cartina del 1860, quella della guerra civile. Ecco, in qualche modo la divisione che attraversa il paese, che tra gli Stati Uniti, è assolutamente identica, a parte se le hanno invertite, se allora i repubblicani erano quelli che guidavano, diciamo così, gli stati più della costa est e quelli della costa ovest, oggi sono i democratici, il resto del paese invece è diciamo appunto sull'altra sponda. Quindi questo è un altro dato di come le permanenze, le prossime azioni storiche poi pesino nel lungo periodo. Sicuramente un po' come è stato per il voto sulla Brexit, è anche un voto in qualche modo contro, è un grande fuck you che gli elettori hanno messo dentro le urne rispetto a quello che è stato anche sostanzialmente credo il portato dell'amministrazione Obama, al di là diciamo così delle modifiche comunque evidentemente ha prodotto Obama il sistema politico. Credo che la più grande comunque lascito, la più grande legacy come si dice da quelle parti della sua amministrazione vada comunque ricondotto alla gestione dell'immediato post crisi 2008, in cui comunque la scelta di Obama appoggiata da Clinton e sarebbe stata un po' anche la sua politica d'ora in avanti, è stata quella comunque di salvare diciamo così le banche, di salvare il partito di Wall Street, per come viene chiamato, ed è anche contro questa ipotesi, diciamo così, contro questa politica, che credo vada letta l'affermazione di Trump, anche legato al fatto che comunque la dinastia in qualche modo dei Clinton appunto dava un'idea probabilmente di una continuità di cui per usare un termine semplice, le masse impoverite in questo momento vivono dentro gli Stati Uniti, evidentemente avevano appunto voglia di dare un messaggio forte di rottura e di cambiamento. Come ultima diciamo così, immagine problematica, complessa da analizzare, qualche giorno fa Trump è andato a fare uno degli ultimi comizi a Filadelfia, che è una città storicamente una città operaia, storicamente sempre stata democratica, e dal palco il suo messaggio è stato qui dobbiamo riaprire le fabbriche, dobbiamo ridare lavoro a tutti, e ieri notte durante diciamo così la sbornia post vittoria, una delle cose che ha detto Trump è d'ora in poi nessuno rimarrà più indietro, gli ultimi torneranno come dire davanti, tutti torneranno a contare, che sono messaggi evidentemente propagandistici. Poi cosa poi farà Trump è che non è stato discorso, però tirando un po' il segno di come quello stacco tra la cosiddetta sinistra, comunque democratici, che di fatto sono il partito di Wall Street, e invece questa capacità di Trump di infilarsi in questo malcontento, sono poi anche dentro un discorso politico pubblico. Questo penso sia un po' alcune delle prime riflessioni che si possono fare su quanto è successo. Io vabbè, intanto appunto ti ringrazio per questa fotografia generale. Noi per te abbiamo due domande. La prima è: cosa cambia per i movimenti, comunque, che è quello che ci interessa. Noi l'abbiamo detto, sicuramente in qualche modo ci ha incuriosito la vittoria di Donald Trump a queste elezioni, e allo stesso tempo non è che Hillary Clinton rappresenti un'opzione in nessun modo a sinistra. E la domanda è: cosa cambia per i movimenti sociali, che è quello che interessa a noi, cioè la crescita anche di percorsi che in qualche modo riescano a rompere la compatibilità con le istituzioni politiche negli Stati Uniti, che appunto immaginano dei percorsi di riappropriazione e di distribuzione della ricchezza all'interno degli States, come in tutti i paesi. Quindi per quanto riguarda in particolare il Black Lives Matter, cosa cambia secondo te, se si aprono degli spazi interessanti? Ma sicuramente dire anche qui, fare poi previsioni non è certamente facile, però sicuramente se sul fronte, diciamo così, esterno, quindi più geopolitico, di relazioni internazionali, la politica di Trump probabilmente avrà una discontinuità significativa con quanto è successo finora, però appunto sul fronte esterno sarà un po' da capire nei prossimi settimane cosa effettivamente riuscirà a muovere, così come su un piano di politiche. È chiaro che invece su questo fronte interno è un po' una messa a verifica che penso avremo a breve. Tutta la campagna di Trump, comunque, nonostante poi il discorso, come la consuetudine che ha fatto, è stato sotto una ricostruire l'America e riunire, diciamo così, il popolo americano, però è evidente che su alcune linee di frattura, quelle razziali in particolare, si apre una partita che apre scenari anche, come dire, duri, da, non dico da guerra civile, forse una parola grossa, però sicuramente per tutto quell'elettorato, anzi quella parte di popolazione, penso a soprattutto latinos e neri, che non hanno comunque visto evidentemente nello spettro Trump, diciamo così, motivo sufficiente per andare ad appoggiare Clinton, però sicuramente su quel fronte lì si aprono spazi di radicalizzazione contro uno scontro che è già in atto, insomma, quello ce ne parlano sulle mobilitazioni degli ultimi due anni di Black Lives Matter, quindi uno scontro che è già in atto, ma che sicuramente va ad acuirsi. Cosa succederà sulla fronte messicana è un altro dei nodi decisivi. Col Trump, insomma, aveva promesso un muro, chissà se quello sarà effettivamente quello che andrà a fare, però insomma, anche su quel fronte lì si aspetta un po' che immaginarsi un inasprimento che apre sicuramente anche spazi politici. Credo che si aprono non tanto o non solo per quello che è stato finora da Chris Metter, ma anche per quello che invece è stato più, diciamo così, il post. Mi spiego: se la composizione più politica che ha Guarda, non ti sentiamo, tu ci senti? Abbiamo un problema con il collegamento. Noi vi lasciamo un'interruzione musicale e ricontattiamo subito il compagno del Laboratorio Crash per farlo riprendere appunto dalla domanda che gli abbiamo fatto sui movimenti sociali, in particolare il Black Lives Matter. Fucile in mano, mercenario ma italiano. Mezzogiorno e 20 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. È caduta la linea con il compagno del laboratorio Crash, con il quale stavamo commentando le presidenziali USA, che ricordiamo hanno visto la vittoria di Donald Trump con 290 grandi elettori. Noi l'abbiamo nuovamente in linea, per fortuna, quindi ripartiamo da dove si è interrotta la nostra corrispondenza. Avevamo posto la domanda al compagno circa cosa cambia per i movimenti sociali, in particolare per il Black Lives Matter, riguardo dopo la vittoria di Donald Trump. Sì, dicevo che sicuramente è un'analisi che va fatta sotto vari profili. Da un lato non bisogna, credo, incorrere, diciamo così, nella ricettina banale del tanto peggio, tanto meglio, ma sicuramente un nemico così esplicito, così duro come un Donald Trump presidente non può che quantomeno dare benzina a un fuoco possibile di una polarizzazione e di una contrapposizione. Il fronte, diciamo così, più esplicito che c'è stato finora, quindi quello, diciamo, della questione razziale, è quello che prelude a scenari veramente poco prevedibili, ma al contempo che credo si metteranno immediatamente a verifica. Ecco, su quel fronte lì Black Lives Matter sicuramente si trova da un lato di fronte a un quasi sicuro aumento sia di una repressione statale, ma penso anche su un livello più sociale. Non scordiamoci che comunque Trump ha avuto all'interno, diciamo, della classe che l'ha sostenuto anche tutte queste formazioni primatiste bianche che sicuramente adesso sentiranno una mano più libera a potersi esprimere, ma anche poi agire. Quindi da un lato c'è sicuramente un indurimento, questo è evidente, che questa vicina, così come sul fronte anche se vogliamo più generale razziale, è chiaro che la frontiera messicana sarà in qualche modo un altro dei momenti, diciamo così, da osservare, perché anche su quel fronte lì, di fronte alla promessa di muri e di inasprimento, ecco, sia sulla frontiera che all'interno poi delle metropoli si andrà a giocare un piano sempre più duro, che può aprire anche spazi di contrapposizione inediti. C'è però, credo, un'altra variabile da considerare, che non è, che è quella, se vogliamo, di un movimento come quello che è stato se vogliamo il post Occupy Wall Street, con tutte le debolezze e anche limiti, insomma, che avevamo già discusso in passato, che ha avuto quel movimento, ma sicuramente adesso anche per quella composizione lì in qualche modo si pone in termini assolutamente nuovi una possibilità di mobilitazione. Se anche, se vogliamo, Bernie Sanders aveva catalizzato su di sé un'ipotesi di trasformazione che sicuramente ha convogliato un pezzo, insomma, così di classi medie, giovani soprattutto, disposte anche alla mobilitazione, ecco, di fronte al contraccolpo, diciamola così, di un Trump presidente, credo che anche su quel fronte lì una possibilità di una politica di piazza, di mobilitazione si apre. Ripeto, è difficile fare previsioni secche, però credo che appunto un'ipotesi inedita di contrapposizione, di mobilitazione, di agitazione sociale si dia dentro la società che appunto si polarizza in maniera veramente repentina come quella americana. Ultima cosa che volevo dire è che sicuramente tutto questo si gioca dentro una contraddizione formidabile, che non è esclusivamente statunitense, ma è, se vogliamo, occidentale, quindi anche europea, quella che abbiamo visto in gioco nei commenti, diciamo così, post-Brexit, ma quella che poi si realizza anche in Francia, penso a quando si parla Le Pen, ma anche in Italia, ossia che c'è comunque un pezzo di classe operaia bianca impoverita che è in qualche modo in questo momento sicuramente catalizzata, attratta da sirene in qualche modo che evidentemente vanno contro quelli che possono essere gli interessi appunto di una composizione di classe, di una politica di classe, ma invece sono attratti appunto da sirene che sicuramente orientano verso il razzismo, quindi verso la guerra tra poveri, verso quest'ultimo, ecco, anche questo sicuramente è un aspetto estremamente preoccupante che interroga un noi generale dei movimenti, comunque delle componenti antagoniste, o come possiamo definirle, su come questa frattura, questo molteplice frattura, come poter orientare in direzione e non reattiva, è un altro dei nodi che vada considerato. Noi, insomma, l'altra domanda che ti volevamo porre rispetto a cosa cambia in chiave, se vogliamo, geopolitica, in chiave anche rispetto in particolare al nostro paese. Abbiamo visto come Obama e Renzi si mandavano messaggi di apprezzamento, l'ultimo incontro anche che hanno avuto, e provare, insomma, a capire cosa cambia nei rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America, cosa cambia anche rispetto agli altri, paesi europei. Vediamo come per esempio la Merkel aveva dato un endorsement alla Clinton, vediamo rispetto alla Russia o anche ai rapporti con il Medio Oriente. Ma insomma, sicuramente con molta anche onestà, diciamo, un tema talmente grosso e insomma, che ci sarebbe da parlarne ore, io probabilmente non ho neanche tutte le competenze per farlo. Quello che posso dire è che sicuramente in questo momento penso che in tante canterie, diciamo, di Europa e non solo, stiano tremando un po' le ginocchia. Immagino che un Renzi sia in una posizione difficile. Nei giorni scorsi, durante i commenti dei nostri giornali della Leopolda, c'era chi diceva, tra i suoi, con il spin doctor, speriamo che quasi che vinca Trump, perché così potremo giocare un'ondata di paura che favorisca il sì. Credo però che in realtà questa affermazione di Trump sia molto problematica per tutte le componenti, diciamo così, democratiche, liberali o quant'altro. È chiaro che è una variabile in qualche modo imprevista, una variabile impazzita che si inserisce all'interno del contesto geopolitico e che aumenta in qualche modo il caos, aumenta un'instabilità che diventa sempre più forma non eccezionale ma normale, un'incontrollabilità che è appunto una variabile che si inserisce nel sistema ed è chiaramente, insomma, una variabile molto pesante, perché stiamo parlando degli Stati Uniti. Quindi per quello che riguarda l'Italia, credo che sull'immediato non avrà troppi effetti, perché Renzi non può né permettersi evidentemente di andare contro in qualche modo Trump, perché comunque stiamo parlando di rapporti diplomatici con la prima potenza mondiale. Nel contempo può permettersi di appunto quindi giocare un effetto paura, quindi credo che dovrà un po' come dire, tenere abbastanza i toni bassi su questo fronte. È chiaro che altre forze politiche tenteranno un gioco, ma insomma l'unico che esplicitamente ha appoggiato Trump e Salvini, che però credo in più spazio in qualche modo ormai anche in Italia sia molto ridotto. Per l'Europa è evidente che rispetto a come si è posto Trump con la Russia è un cambio di gioco abbastanza di paradigma, mi verrebbe quasi a dire abbastanza radicale. Una casa come dicevi tu, la Merkel ha esplicitamente fatto un endorsement per Clinton, perché su quella frontiera lì, sulla frontiera Europa-Russia, la partita che si è giocata sinora potrebbe rovesciarsi. È chiaro che appunto anche sul Medio Oriente qui sono tutte partite che veramente io faccio fatica adesso a dare previsioni secche. Credo che già oggi, domani, dopodomani, insomma, in questi primi giorni assisteremo ad alcuni assestamenti. Dicevo prima una dichiarazione che della NATO, che in qualche modo sembrava dire ci siamo anche noi, tenete stimici in considerazione Trump, perché tra le altre cose che Trump in qualche modo ha dichiarato in campagna elettorale è una politica sostanzialmente neoisolazionista, quindi un ritiro di tecnici da vari fronti, un disinvestimento in termini militari, il contrario di quello che invece aveva detto che avrebbe fatto Clinton. E quindi anche per l'Europa si apre per uno spazio di maggiore autonomia disciplinari in termini politici, ma dentro la frammentazione adesso questo è un altro appunto elemento che introduce più caos. Quindi no, sono giusto un po' di riflessioni sparse, difficile fare un quadro generale. L'ultima cosa che posso dire è che sicuramente qui credo che da un punto di vista, diciamo così, dei movimenti si tratta né di cadere nel discorso, se vogliamo, liberale, democratico della paura del mostro, né nel discorso del Trump come nuovo fascismo. Si tratta di riuscire il più possibile a fare un'analisi abbastanza concreta di quelle che sono le forze in campo e le spinte che in qualche modo credo siano più generali che gli Stati Uniti, e su questo un po' attrezzarsi per una fase che sicuramente si indurisce, ma che al contempo anche apre possibilità inedite. Beh, noi ti ringraziamo, sappiamo che ti abbiamo posto delle domande particolarmente complesse, veramente difficile anche trovare un punto di vista che sia lineare, che provi in qualche modo anche a fornirci un quadro d'azione. E come dicevi tu in chiusura, i prossimi giorni saranno fondamentali, bisognerà fare molta attenzione a quali sono le prime dichiarazioni del leader del partito repubblicano. E diciamo staremo a vedere le evoluzioni. Noi ti ringraziamo per la corrispondenza.